tardi, quella sera, dopo che Mrs. Cadwallader se ne fu andata, Celia disse in confidenza a Dorotea: "Veramente, Dodo, toglierti la cuffia ti ha fatto di nuovo somigliare a te stessa, sotto più di un aspetto. Hai parlato francamente come eri solita fare, quando si diceva tutto per farti dispiacere. Ma non sono riuscita a capire se pensavi che avesse torto James o Mrs. Cadwallader." "Nessuno dei due," disse Dorotea. "James parlava per delicatezza verso di me, ma si sbagliava a supporre che mi desse fastidio ciò che diceva Mrs. Cadwallader. Mi dispiacerebbe solo se ci fosse una legge che mi obbligasse ad accettare qualsiasi esemplare di nobiltà e bellezza che lei o chiunque altro mi raccomandassero. Ma sai, Dodo, se mai ti sposassi sarebbe tanto di guadagno avere nobiltà e bellezza," disse Celia, riflettendo che Mr. Casabo non era stato provvisto in grande misura di quelle doti e che sarebbe stato bene mettere in guardia per tempo Dorotea. "Non preoccuparti, Kitty, ho dei piani del tutto diversi per la mia vita." "Non mi risposerò più," disse Dorotea, toccando il mento della sorella e guardandola con affettuosa indulgenza. Celia stava allattando il bambino e Dorotea era venuta a darle la buonanotte. "Davvero? Proprio?" disse Celia. "Assolutamente nessuno, neppure se fosse proprio stupendo." Dorotea scosse il capo lentamente. "Assolutamente nessuno. Ho dei progetti meravigliosi. Mi piacerebbe prendere molta terra e bonificarla, e farne una piccola colonia dove ognuno lavorasse e tutto il lavoro fosse fatto bene. Conoscerei tutti e sarei loro amica. Ho intenzione di consultarmi a lungo con Mr. Garth. Lui è in grado di dirmi quasi tutto quello che voglio sapere." "Allora sarei felice se hai un progetto, Dodo," disse Celia. "Forse al piccolo Arthur piaceranno i progetti quando sarà cresciuto e allora potrà aiutarti." La sera stessa Sir James venne a sapere che Dorotea era davvero del tutto contraria a sposare chiunque e aveva intenzione di dedicarsi a ogni genere di progetti, proprio come era solita fare. Sir James non ribatté nulla. Egli era del segreto avviso che ci fosse qualcosa di ripugnante nel secondo matrimonio di una donna, e nessun partito gli avrebbe impedito di pensare che fosse una sorta di profanazione per Dorotea. Si rendeva conto che il mondo avrebbe considerato assurda una simile opinione, soprattutto riguardo a una donna di 21 anni. Poiché è abitudine del mondo considerare il secondo matrimonio di una giovane vedova come qualcosa di scontato e probabilmente prossimo, e a sorridere in modo eloquente se la vedova si comporta di conseguenza. Ma se Dorotea preferiva davvero sposare la propria solitudine, egli sentiva che la decisione sarebbe stata degna di lei. Capitolo 56. La fiducia di Dorotea nelle condizioni di Caleb Garth, che era iniziata quando aveva sentito dire che egli approvava i suoi cottage, era aumentata rapidamente durante il suo soggiorno a Freshitt, quando Sir James l'aveva indotta a fare delle cavalcate sulle due tenute assieme a lui stesso e a Caleb, il quale ricambiò completamente l'ammirazione di lei e raccontò alla moglie che Mrs. Casab aveva una testa per gli affari assai rara in una donna. Bisogna ricordare che con affari Caleb non intendeva mai transazioni finanziarie, bensì l'abile impiego del lavoro. "Assai rara," ripeté Caleb. "Ha detto una cosa che pensavo spesso quando ero ragazzo. Mr. Gers mi piacerebbe pensare, se dovessi vivere fino a diventare vecchia, di aver migliorato un gran tratto di terra e costruito un gran numero di cottage, perché il lavoro è sano quando viene compiuto e dopo gli uomini vivono meglio grazie ad esso." Queste sono state le sue stesse parole. Considera le cose in quel modo. "Ma in modo femminile, spero," disse Mrs. Garth, sospettando un po' che Mrs. Casabo potesse non attenersi al principio corretto della subordinazione. "Oh, non puoi immaginartelo," disse Caleb scuotendo il capo. "Ti piacerebbe sentirla parlare, Susan. Parla con parole così comuni e con una voce simile alla musica. Santo cielo, mi ricorda dei brani del Messia." E immediatamente comparve una moltitudine delle schiere celesti, lodando il Dio e dicendo: "Lei c'è una tonalità che soddisfa l'orecchio." Caleb era assai amante della musica e quando poteva permetterselo andava ad ascoltare un oratorio che giungeva nelle vicinanze, ritornandone con un senso di profonda reverenza per questa imponente struttura di tonalità, che lo faceva sedere con aria meditabonda, gli occhi fissi al suolo, e una grande quantità di linguaggio inesprimibile nelle sue mani allungate. Con questo accordo fra di loro, era naturale che Dorotea chiedesse a Mr. Garth di intraprendere qualsiasi lavoro connesso alle tre fattorie e alle numerose proprietà in affitto annesse all'Howick Manor. In effetti, la sua speranza di trovare lavoro per due si stava realizzando rapidamente. Come egli diceva, gli affari producono affari, e una forma di affari che proprio allora stava cominciando a svilupparsi era la costruzione delle ferrovie. Una linea progettata doveva passare attraverso la parrocchia di Lowick, dove il bestiame aveva finora pascolato in una tranquillità non interrotta da stupore, e così avvenne che i primitivi tentativi del sistema ferroviario entrassero nelle faccende di Caleb Garth e determinassero il corso di questa storia riguardo a due persone che gli erano care. La ferrovia sottomarina può darsi che comporti delle difficoltà, ma il letto del mare non è diviso fra vari proprietari terrieri, che reclamano il pagamento di danni non solo computabili, ma affettivi. Nella centena a cui Middlemarch apparteneva, la ferrovia era un argomento di conversazione eccitante, come la legge di riforma o gli imminenti orrori del colera, e coloro che avevano le opinioni più decise sull'argomento erano le donne e i proprietari terrieri. Le donne, sia vecchie che giovani, consideravano il viaggiare con la locomotiva a vapore sfacciato e pericoloso e parlavano contro di esso dicendo che nulla le avrebbe indotte a entrare in una carrozza ferroviaria. Mentre i proprietari, dissentendo l'uno dall'altro come Mr. Solomon's Fairbrother, dissentiva da Lord Medlicott. Erano unanimi, tuttavia, nel sostenere che nella vendita delle terre, vuoi al nemico dell'umanità, vuoi a una compagnia obbligata ad acquistare, questi perniciosi enti dovevano essere costretti a sborsare un prezzo assai alto ai proprietari terrieri per avergli permesso di danneggiare l'umanità. Ma gli intelletti più lenti, quali Mr. Solomon e Mrs. Whale, i quali occupavano entrambi terre di loro proprietà, impiegarono molto tempo per giungere a questa conclusione, poiché la loro mente si fermò davanti all'idea vivida di cosa sarebbe stato tagliare in due il grande pascolo e trasformarlo in appezzamenti con tre angoli, il che sarebbe stato fuori posto. Mentre ponti di comunicazione e altri pagamenti erano cose remote e incredibili. Le vacche partoriranno tutte prematuramente, fratello, disse Mrs. Whale con un tono di profonda malinconia, se la ferrovia attraversa il recinto vicino. E non mi meraviglierei neppure della cavalla se fosse incinta. È un'ingiustizia se la terra di una vedova deve venire vangata via e la legge non interviene. Cosa impedirà loro di tagliare a destra e a sinistra se cominciano? Si sa bene. Io non posso battermi. La cosa migliore sarebbe di non dire niente e aiutare qualcuno a mandarli via in malo modo quando vengono a spiare a misurare, disse Solomon. La gente ha fatto così attorno a Bressing, da quello che mi dicono. Se si sapesse la verità, è tutta una storia inventata che siano obbligati a seguire un unico tracciato, che vadano in un'altra parrocchia. E io credo che non ci sia somma che possa risarcirti quando un branco di mascalzoni vengono a calpestarti i raccolti. Dov'è il denaro di una compagnia? Il fratello Peter, Dio lo perdoni, si è fatto dare dei soldi da una compagnia, disse Mrs. Whale. Ma quello era per il manganese, non era perché delle ferrovie ti riducessero a pezzi a destra e a sinistra. Beh, bisogna dire questo, Jane, Mr. Solomon concluse abbassando la voce con fare circospetto. Quanti più bastoni gli mettiamo fra le ruote, tanto più ci pagheranno per lasciarli passare, che debbano venire o no. Questo argomento di Mr. Solomon era forse meno accurato di quanto egli immaginasse, dal momento che la sua astuzia aveva lo stesso rapporto col percorso delle ferrovie che l'astuzia di un diplomatico ha col raffreddamento generale del sistema solare. Ma egli si mise ad agire in base alle proprie opinioni in modo assolutamente diplomatico, suscitando il sospetto. La sua parte di Lowick era la più lontana dal paese e le abitazioni dei braccianti erano o dei cottage solitari o raccolte in un agglomerato chiamato Frick, dove un mulino ad acqua e alcune cave di pietra costituivano un piccolo centro industriale lento e malagevole. In mancanza di alcuna idea precisa sulle ferrovie, l'opinione pubblica di Frick era contraria ad esse, perché la mente umana, in quell'angolo erboso, non era dotata della proverbiale tendenza ad ammirare l'ignoto e sosteneva piuttosto che era probabile che fosse a danno dei poveri, e la diffidenza era l'unico atteggiamento saggio riguardo ad essa. Persino le voci della riforma non avevano suscitato alcuna attesa millenaristica a Frick, dato che non conteneva alcuna promessa precisa, come di granaglie gratuite per ingrassare il maiale di Hiram Ford o di un birraio al Weights and Scales che avrebbe fatto la birra per niente, o di un'offerta da parte dei tre fattori confinanti di alzare le paghe durante l'inverno. E poiché non prometteva, nessun vantaggio di questo genere, la riforma sembrava allo stesso livello delle spacconate dei venditori ambulanti, il che era per ogni persona veduta un incitamento alla sfiducia. Gli uomini di Frick non erano malnutriti e più che al fanatismo erano dediti a un forte sospetto nerboruto e più che a credere di essere particolarmente assistiti dal cielo, a considerare il cielo piuttosto disposto a imbrogliarli, una tendenza osservabile nel clima. Talché la mente di Frick era esattamente del genere da restare influenzato da Mr. Solomon Thurston, poiché egli possedeva idee più fertili dello stesso tipo, con una diffidenza verso il cielo e la terra meglio alimentata e più completamente libera. Solomon, a quel tempo, era ispettore delle strade e sul suo piccolo cavallo dai passi lenti spesso faceva il suo giro per Frick per osservare gli operai che vi prendevano le pietre, fermandosi con una misteriosa tranquillità che vi avrebbe potuto indurre erroneamente a pensare che per fermarsi avesse qualche altro motivo, oltre la semplice mancanza dell'impulso a muoversi. Dopo aver guardato a lungo qualsiasi lavoro che procedeva, scuoteva la briglia, dava una frustata al cavallo e lo faceva procedere lentamente. La lancetta delle ore era rapida a confronto di Mr. Solomon, il quale aveva la gradevole sensazione di potersi permettere di andare piano. Aveva l'abitudine di fermarsi per una guardinga chiacchierata dagli scopi vaghi con ogni piantatore di siepi o serratore lungo la strada ed era in particolar modo incline ad ascoltare anche notizie che aveva udito in precedenza, sentendosi avvantaggiato su ogni interlocutore per il fatto di credere solo in parte a ciò che quello diceva. Un giorno, tuttavia, si mise a parlare con Hiram Ford, un carrettiere, che gli stesso contribuì ad informare. Voleva sapere se Hiram aveva visto della gente con aste e strumenti intenta a spiare nei dintorni. Si chiamava agente della ferrovia, ma era impossibile dire cosa fosse o cosa intendesse fare. Dicevano solo che stavano per frazionare la parrocchia di Lowick. Ma allora non ci si potrà muovere da un posto all'altro, disse Hiram, pensando al suo carro e ai suoi cavalli. Nemmeno un po', disse Mr. Solomon, e tagliare una bella terra come questa parrocchia. Che vadano a Tipton, dico io. Ma chissà cosa c'è in fondo. Il traffico è il pretesto che mettono davanti a tutto. Ma a lungo andare farà del male alla terra ai poveri. Ma sì, è gente di Londra, immagino, disse Hiram, il quale aveva la vaga idea di Londra come centro di ostilità nei riguardi della campagna. Già, certo, è da qualche parte vicino a Bressing, da quello che ho sentito dire. La gente li ha saliti mentre stavano spiando e ha rotto quegli spioncini che portano e li ha cacciati via, così ci pensano due volte prima di tornare. È stato un bel divertimento, ci scommetto, disse Hiram, a cui la sua situazione economica consentiva divertimenti assai limitati. Beh, anch'io non vorrei averci a che fare con loro, disse Solomon. Ma certuni dicono che tempi migliori per questo paese sono passati, e il segno è che è manifestato da questi tipi che calpestano a destra e a sinistra e vogliono dividerlo in ferrovie. E tutto perché il grande traffico ingoia il piccolo, in modo che quassù non ci resterà un tiro di cavalli né una frusta da far schioccare. Gli farò schioccare la mia frusta, attorno alle orecchie, prima che arrivino a questo punto, però, disse Hiram mentre Mr. Solomon, scuotendo la briglia, passava avanti. Il seme di ortica non ha bisogno di essere piantato. La rovina di quella campagna da parte delle ferrovie fu discussa non solo al Weights and Scales, ma nel campo di fieno, dove la donata di braccianti offre l'occasione di discorsi quali si dava di rado in tutto l'anno rurale. Una mattina, non molto tempo dopo il colloquio fra Mr. Fairbrother e Mary Garth, in cui lei gli confessò i suoi sentimenti per Fred Vincey, accadde che suo padre avesse una certa faccenda che lo portò alla fattoria di Yodrell, in direzione di Frick. Era per misurare e valutare un appezzamento di terra fuori mano appartenente a Lowick Manor, che Caleb si aspettava di vendere a termini vantaggiosi per Dorotea. Bisogna confessare che egli era propenso a strappare le migliori condizioni possibili alle compagnie ferroviarie. Fermò il calesse da Yodrell e, camminando col suo aiutante e la catena graduata verso la scena del suo lavoro, si imbatté nel gruppo degli agenti della compagnia che stavano aggiustando la livella bolla. Dopo qualche chiacchierata, si separò da loro, osservando che di lì a poco lo avrebbero raggiunto di nuovo, dove si stava recando a fare le misurazioni. Era una di quelle mattine grigie dopo un leggero acquazzone che diventano deliziose verso mezzogiorno, quando le nubi si squarciano un po' e l'odore della terra è dolce lungo i viali e accanto alle siepi. L'odore sarebbe stato più dolce per Fred Vincy, che stava percorrendo i viottoli a cavallo, se la sua mente non fosse stata tormentata dagli sforzi falliti per immaginare cosa doveva fare con suo padre da un lato, che si aspettava che si facesse immediatamente prete, con Mary dall'altro, che minacciava di abbandonarlo se lo faceva, e col mondo della quotidianità che non mostrava di avere minimamente bisogno di un giovane gentiluomo privo di capitali e in generale non specializzato. La cosa era tanto più difficile per il carattere di Fred, perché suo padre, soddisfatto che egli non si ribellasse più, era di buon umore con lui e lo aveva mandato a compiere questa piacevole cavalcata per occuparsi di alcuni levrieri. Anche quando avesse deciso cosa avrebbe fatto, ci sarebbe stato il compito di dirlo a suo padre. Ma bisogna ammettere che la decisione, che doveva venire prima, era il compito più difficile. Quale lavoro secolare al mondo c'era per un giovanotto, i cui amici non riuscivano a procurargli una nomina, che fosse a un tempo signorile, remunerativo ed esercitabile senza condizioni particolari. Cavalcando lungo i viottoli vicino a Frick, in questo stato d'animo, e allentando l'andatura mentre rifletteva se avesse dovuto avventurarsi a passare dalla parrocchia di Lowick a visitare Mary, era in grado di vedere al di sopra delle siepi da un campo all'altro. All'improvviso un rumore destò la sua attenzione e al lato opposto di un campo, alla sua sinistra, vide sei o sette uomini in camicia e con dei forconi in mano avvicinarsi con aria ostile verso i quattro agenti della ferrovia che stavano di fronte a loro, mentre Caleb Garth e il suo aiutante stavano attraversando di corsa il campo per unirsi al gruppo minacciato. Fred, attardandosi per qualche momento a cercare il cancello, non riuscì a raggiungere il luogo prima che il gruppo di braccianti in camicia, il cui compito di rivoltare il fieno non era stato troppo pressante dopo che avevano ingozzato la birra del mezzogiorno, non inseguisse con i forconi gli uomini con la giacca, mentre l'aiutante di Garth, un ragazzo di 17 anni che si era impadronito della livella su ordine di Caleb, era stato steso a terra con un pugno e sembrava giacere inerme. Gli uomini in giacca erano in vantaggio nella fuga e Fred coprì la loro ritirata buttandosi di fronte agli uomini in camicia e caricandoli abbastanza all'improvviso da disorientare il loro inseguimento. «Cosa avete intenzione di fare, maledetti stupidi?» gridò Fred, inseguendo a zigzag il gruppo diviso e menando colpi di frusta a destra e a manca. «Giurerò come testimone contro ciascuno di voi davanti al magistrato. Avete atterrato il ragazzo e lo avete ucciso, per quello che ne so!» Sarete tutti quanti impiccati alle prossime assise se non fate attenzione, disse Fred, il quale in seguito rise di cuore ricordando le proprie frasi. I braccianti erano stati spinti attraverso il cancello nel loro campo di fieno e Fred aveva fermato il proprio cavallo, quando Hiram Ford, notando che si trovava a una distanza sicura per sfidarlo, si voltò e urlò una provocazione che non sapeva essere omerica. Siete un vigliacco, ecco cosa siete. Scendete dal cavallo, signorino, e farò un po' pugni con voi, ve lo prometto. Non avete il coraggio di venire avanti senza cavallo e frusta. Vorrei proprio togliervi il respiro con un pugno. Aspetta un momento e tornerò subito e farò pugni con tutti quanti a turno, se volete, disse Fred, che si sentiva fiducioso nella propria capacità di menare le mani con i suoi amatissimi fratelli. Ma in questo momento desiderava tornare in fretta da Caleb e dal giovane a terra. Il ragazzo aveva la caviglia slogata che gli dava molto dolore, ma non aveva ricevuto altra ferita e Fred lo mise sul cavallo perché potesse cavalcare fino alla fattoria di Odrell e qui essere assistito. Che mettono il cavallo nella stalla e dite agli agrimensori che possono tornare indietro a prendere i loro arnesi, disse Fred. Il terreno è sgombro ora. No, disse Cale, ci sono dei danni. Per oggi dovranno rinunciarci e sarà tanto meglio. Ecco, metti la loro roba davanti a te sul cavallo, Tom. Ti vedranno arrivare e torneranno indietro. Sono contento di essere stato qui al momento giusto, Mr. Gert, disse Fred, mentre Tom se ne andava via a cavallo. Non so cosa sarebbe potuto succedere se la cavalleria non fosse arrivata in tempo. Già, è stata una fortuna, disse Cale, parlando con aria piuttosto assente e guardando verso il punto in cui si trovava a lavorare al momento dell'interruzione. Ma il diavolo lo prenda! Ecco cosa succede quando gli uomini sono stupidi. Questo mi impedisce di fare la mia giornata di lavoro. Non posso andare avanti senza che qualcuno mi aiuti con la catena graduata, comunque. Stava cominciando ad avviarsi verso il punto con aria irritata, come se si fosse dimenticato della presenza di Fred, quando all'improvviso si voltò e disse in fretta: Cosa devi fare oggi, giovanotto? Niente, Mr. Girth. Vi aiuterò con piacere, posso? Disse Fred con la sensazione che avrebbe corteggiato Mary quando stava aiutando suo padre. Beh, non deve dispiacerti chinarti e sudare. Non mi dispiace niente. Solo voglio prima andare a scambiare qualche pugno con quel bietolone che si è voltato a sfidarmi. Sarebbe una bella lezione per lui. Non ci metterò nemmeno 5 minuti. Stupidaggini, disse Caleb col suo tono più perentorio. Vado a parlare agli uomini io stesso. È tutta ignoranza. Qualcuno ha detto loro delle menzogne. Quei poveri stupidi non sanno altro. Allora vengo con voi, disse Fred. No, no, resta dove sei. Non ho bisogno del tuo sangue, giovane. Posso badare a me stesso. Caleb era un uomo poderoso e non aveva alcuna paura, tranne quella di fare del male agli altri e di dover fare discorsi, ma in quel frangente sentiva che era suo dovere cercare di fare una piccola arringa. In lui c'era un misto eccezionale, dovuto al fatto che egli stesso era stato un uomo che aveva sempre lavorato sodo, di idee rigorose sui lavoratori e di effettiva indulgenza nei loro confronti. Compiere il lavoro di una giornata e compierlo bene lo considerava parte del loro benessere, come era parte principale della sua felicità. Ma nutriva un forte senso di cameratismo nei loro confronti. Quando si fece avanti verso i braccianti, questi non erano tornati al lavoro, ma stavano in piedi, in quella forma di raggruppamento contadino che consiste nel voltare una spalla l'uno all'altro, alla distanza di 2 o 3 metri. Questi guardarono piuttosto imbronciati Caleb, il quale camminava svelto con una mano in tasca e l'altra ficcata a fare i bottoni del panciotto, e quando si fermò fra di loro aveva la sua consueta aria mite. Ehi ragazzi miei, cosa succede? Gli cominciò, scegliendo come al solito frasi brevi che a lui sembravano dense di significato perché sottintendevano molti pensieri, come le abbondanti radici di una pianta che riesce a malapena a far capolino al di sopra del livello dell'acqua. Come mai siete arrivati a fare uno sbaglio del genere? Qualcuno vi ha detto delle menzogne? Pensavate che quegli uomini lassù volessero fare del male? Già, fu la risposta, lasciata cadere a intervalli da ciascuno secondo il suo grido di indecisione. Stupidaggini, nessuna cosa del genere. Essi stanno esaminando per vedere da che parte deve passare la ferrovia. Ora, ragazzi miei, non potete ostacolare la ferrovia. Sarà costruita che vi piaccia o no. E se voi continuate ad opporvi ad essa, vi metterete nei guai. La legge dà il permesso a quegli uomini di venire qui sulla terra. Il proprietario non ha nulla da ridire su questo. E se voi gli mettete le mani addosso, avrete a che fare col poliziotto e col giudice Bucklesy e con le manette il carcere di Middlemarch. E adesso potreste essere già nei guai se qualcuno vi denunciasse. Caleb a questo punto si fermò e forse il più grande oratore non avrebbe potuto scegliere né la pausa né le immagini migliori per l'occasione. Ma andiamo, voi non avete intenzione di fare alcun male. Qualcuno vi ha detto che la ferrovia era una cosa cattiva, era una menzogna. Può darsi che faccia un po' di male qua e là, questo e quello. Ma così fa il sole in cielo. Ma la ferrovia è una buona cosa. Già, buona perché i ricchi si facciano i soldi, disse il vecchio Timothy Cooper che era rimasto indietro a rivoltare il fieno mentre gli altri si erano dati a far bisboccia. Ho visto un sacco di cose succedere da quando ero giovane, la guerra e la pace e i canali e il vecchio Re Giorgio, il reggente e il nuovo Re Giorgio e quell'altro nuovo che ha un nome nuovo. E per il povero è stato lo stesso. Non gli hanno portato né carne né pancetta, né salario da mettere da parte, a meno che non lo facesse mettendo a morire di fame le sue budella. I tempi sono peggiorati per lui da quando ero giovane, e così sarà con la ferrovia. Lascerà il povero ancora più indietro. Ma sono stupidi quelli che si mischiano. E così ho detto a questi ragazzi qui. Questo è il mondo della gente importante, questo. Ma voi state dalla parte della gente importante, Mr. Gert. Voi state.